Cari amici, Pietro Pancamo vi dà il benvenuto a questa nuova puntata di The Big World of Poetry and Fiction. Oggi avremo ben due ospiti, il poeta Matteo Marangoni e l'artista Alfonso Caputo. A intervistarli per noi è stata la scrittrice Rita Bonpadre, come voi stessi potrete constatare dopo lo stacchetto musicale che sta per andare in onda. Benvenuti, buon pomeriggio, ci troviamo nel cortile di Palazzo Bonfranceschi a Belforte del Chienti. Abbiamo il piacere di incontrare, su proposta di Pietro Pancamo, per la web radio Radio Big World, Matteo Marangoni. Sì, ciao. Benvenuto. Grazie mille. Senti Matteo, voglio chiederti subito come è nata la tua passione per la poesia. La mia passione per la poesia è nata intorno ai primi anni del 2000. È nata grazie all'incontro reale del suo modus operativo più concreto con l'arte e fare arte contemporanea, in questo caso, con due artisti della scena marchigiana, Claudio Fazzini e Alfonso Caputo. Nell'ordine esatto, con Claudio Fazzini, nei primi anni del 2000 ci fu l'occasione di parlare a fondo di accadimenti della vita in generale, di arte contemporanea, di scritti, di scrittori contemporanei e non solo, di poesia. E grazie a quell'incontro è poi nata l'organizzazione, o c'è stata l'organizzazione, di una delle sue prime mostre d'arte nella sua città natale, che è appunto a Ferrara. Con Alfonso Caputo la prima conoscenza è avvenuta appunto sempre in quegli anni, esattamente intorno penso al 2002, in occasione di una delle sue mostre nella provincia di Macerata, e il rapporto di amicizia e di collaborazione continua ancora oggi. Insomma, questo osservare e fare arte in modo concreto, che poi è specchio della vita, mi ha portato a rendere ancora più concreto il mio modus di fare arte, il mio modo attraverso la letteratura, attraverso in questo caso nello specifico la poesia, che non può essere cosa privata o rimanere solo occasione privata di impegno. Non è neanche un caso che poi con Alfonso sia nata l'idea, proprio allora, di scrivere un testo insieme, dal titolo Testi ed Immagini, con i miei testi, mie poesie e sue immagini, tutto rigorosamente in bianco e nero. Per il colore c'è sempre tempo, sono solito dire, si può anche aspettare, e questa è anche la bellezza dell'arte. Senti, qual è la fonte di ispirazione o anche l'espressione poetica quindi più vicina alla tua sensibilità, al tuo modo di essere? Riprendendo dalla prima domanda, gli spunti della prima domanda, sicuramente l'arte a 360 gradi, la vita degli uomini, degli artisti, la poesia, la lettura di testi poetici, la poesia haiku, come la Beat Generation, come autori come Emily Dickinson, la Platt, donne o Alda Merini, o poeti più impegnati come Alexandros Spanagoulis o Remo Pagnarelli, potremmo citarmi tanti altri. Ma soprattutto la natura, tutto ciò che ci circonda come uomini e natura, quello osservare, osservarsi, sentire, sentirsi costantemente, che è poi il vero e più profondo senso della vita. Sappiamo che hai partecipato spesso a numerosi premi letterari nazionali ed internazionali. Vorrei chiederti qual è l'importanza oggi dei premi letterari e soprattutto se è importante il confronto con le altre realtà culturali e letterarie. Nel corso degli anni è stato, tutt'oggi però, importante partecipare a premi letterari, come confrontarsi con altre realtà culturali, locali e non solo. Ma su questo non mi vorrei dilungare troppo e vorrei subito passare alla lettura di alcuni miei testi poetici. Casa di bambole, tu, intensa, occhi grandi, colpisci ma rifugi nella tua casa di bambole. Quando di te non rimarrà nulla, sarò già un piede sopra il cielo. Il fiume allaga la caverna, il fiume scende fra le colline. Il tempo non ha fretta. Lavoro, precariato, disoccupazione, occupazione, azione, protesta, basta, basta, basta! Testo per l'uomo Remo Pagnanelli, poeta. Recherché, un battello ebro di vita. Nostalgia. Incredibile equilibrio, instabile forza, vita legata ad altri, tu, candida inconsistenza, io, exit, big thing, tu, insufficiente cosa, noi, polis, res publica. Non più libero. Sospeso il tempo, il pensiero chiama ancora, ma non ha parole. È fuori dal mondo, è sorpreso e lo sguardo è invisibile. Non c'è più altrove. Ringraziamo Matteo per averci regalato questa emozione con la lettura dei suoi testi poetici. Grazie ancora a te, grazie a voi. Descrivici ora anche altre attività culturali che tu porti avanti. Ma descrivere adesso in questa breve intervista tutte le attività culturali parallele di cui sono stato partecipe porterebbe via troppo tempo, quindi annoierebbe forse gli ascoltatori, i nostri ascoltatori. Non volendo dilungarmi troppo, quindi riassumerei in questa maniera. Fin dai primi anni del 2000 sono stato impegnato nelle attività culturali, organizzazione di eventi, spettacoli musicali, teatrali, organizzazione di mostre d'arte, in qualità di coorganizzatore soprattutto. Poi, negli ultimi anni, in collaborazione con altri enti senza scopo di lucro e non solo, abbiamo avuto modo di organizzare, ho avuto modo di organizzare eventi come il Premio Nazionale di Poesia, Poesia al Mondo, o il Festival Nazionale di Teatro, Danza, Musica e Poesia Notti d'Estate, o eventi più legati al mondo del libro, della letteratura, come Libriamoci, il Maggio dei Libri, la Giornata Mondiale della Poesia, come anche del teatro in parallelo. O le festival sudamericane, eccetera. Senti, infine ti chiediamo qual è l'importanza e soprattutto l'efficacia della cultura poetica oggi. Rispondendo a quest'ultima domanda, volendo fare appunto un sunto di tutto ciò che ci siamo detti, l'efficacia e l'importanza risiede nel dare vita, specchio a ciò che accade nella vita, cioè fotografare ogni istante della vita, buttarlo e fissarlo su carta, che costituisce poi il nostro reale quotidiano impegno, cioè dare vero senso alla vita, dare vero senso al proprio tempo in questa maniera. Ringraziamo quindi di nuovo Matteo per il tempo che ci ha concesso e per le parole che ci ha regalato. Ringrazio ancora grazie te a lei. Ringraziamo ancora i nostri ascoltatori. Continuiamo la nostra conversazione con Alfonso Caputo, direttore artistico di Notti d'Estate. E a questo proposito io ti ringrazio di essere qui, benvenuto, e ti chiedo subito la descrizione del progetto di questo festival Notti d'Estate che si svolge a Belforte del Chienti. Dico, ovviamente sono io che ringrazio voi per questa opportunità. È sempre importante poter descrivere quello che si fa e dare voce alle proprie azioni. Relativamente al progetto Notti d'Estate, va detto che è uno dei progetti di punta di Terra dell'Arte, organizzazione artistica internazionale nata nel 2002 e sviluppatasi nel corso degli anni sempre più radicandosi in vari paesi del mondo. E qui a Belforte del Chienti, nel Museo Midac, che ha sede nella chiesa, nell'ex chiesa di San Sebastiano, che si svolgono le nostre attività in Italia. Prevalentemente le nostre attività in Italia si svolgono qui, questo è il nostro quartier generale. Notte d'Estate nasce fin dall'apertura del museo con il desiderio di mettere in evidenza tutte le forme artistiche non strettamente legate all'arte visiva, quindi praticamente appunto teatro, danza, musica e poesia, e mi è particolarmente caro in quanto sono molto legato a queste forme espressive. E quindi attraverso il corso degli anni abbiamo cercato sempre più di concentrare l'attenzione e di proporre situazioni di interesse al fine appunto di evidenziare l'importanza della presenza di queste forme espressive nella vita di tutti i giorni. A questo proposito infatti ti chiedo se c'è stato una testimonianza o un contesto che ha animato una serata di Notti d'Estate. Ovviamente nel corso dei tanti anni, perché ormai stiamo parlando dal 2007 che esiste il festival, abbiamo avuto presenze tutte graditissime e tutte molto importanti. Certamente senza far torto a nessuno possiamo evidenziare due presenze che nell'ambito teatrale e nell'ambito letterario hanno maggiormente catturato probabilmente l'attenzione del pubblico, e stiamo parlando di Francis Parvegan e di Cinzia Tani. Ecco, questo non per far torto a nessuno, ma semplicemente per evidenziare probabilmente i due momenti che hanno catturato maggiormente dal punto di vista emozionale il nostro pubblico. Alfonso, ti chiediamo di descriverti, perché anche attraverso altre attività culturali, artistiche, sei presente. Sì, diciamo che, ecco, come dico sempre, non è facile parlare di se stessi, sembra quasi un voler incensare la propria persona, però è necessario anche per presentarsi ad un pubblico che non mi conosce, chiaramente è necessario fare il punto delle situazioni. Io nasco come artista, mi esprimo in varie forme, mi esprimo attraverso la parola scritta, la poesia, il racconto e i saggi a volte, mi esprimo attraverso le immagini, quindi attraverso la fotografia, la pittura, l'arte digitale e la videoarte. In ogni forma espressiva chiaramente ho cercato sempre di incanalare i vari progetti che come artista ho generato. Sì, ho un'attività che ha abbracciato, diciamo, un po' tutti e cinque i continenti. Ho avuto la possibilità e la fortuna di essere invitato e di esporre in vari contesti di assoluto prestigio, e ho colto l'occasione in queste situazioni per generare incontri con altri artisti che con me condividessero l'idea di creare questa rete internazionale finalizzata alla creazione di opportunità per l'arte e per gli artisti, che è appunto Terra dell'Arte. Qual è l'esperienza formativa o performativa che ti descrive meglio, artisticamente parlando? Diciamo che preferisco dire che è quella che vivo nel momento, proprio perché mi esprimo in vari modi diversi, non saprei inquadrare una esperienza come la maggiormente significativa. Ritengo che quella che vivo nel momento presente è sicuramente quella che meglio mi rappresenta. Ti chiediamo adesso, Alfonso, secondo te la capacità comunicativa e artistica ha un valore universale? È capace però di raggiungere un sentire comune oppure è solo un obiettivo? Sì, senz'altro sono convinto di questo, altrimenti diversamente sarebbe impossibile avere tanta determinazione e tanta passione nel generare questi progetti che appunto sono finalizzati a questo. Ovviamente ci sono forme espressive come la musica, come le arti visive, che sono di maggiore immediatezza per quanto riguarda la percezione e la creazione di un rapporto tra l'autore e il percettore, per così dire. Ovviamente anche il teatro, anche la parola scritta o recitata hanno questa opportunità, hanno questa capacità, ma ovviamente sono soggette all'intervento altamente professionale di chi poi traduce portando questa espressione nella lingua di chi poi l'ascolterà e la vivrà. Quindi credo profondamente che sia possibile, credo profondamente che sia anzi fondamentale lottare da questo punto di vista, perché altrimenti non avremmo la prospettiva di un mondo diverso in cui si evidenziano e si dà importanza ad altri fattori che non siano quelli che viviamo nella vita quotidiana di tutti i giorni. Ringraziamo quindi Alfonso Caputo, che in questo momento ci saluta però con una lettura dei suoi testi. Ti domanderò. Quando ti domanderò dove sono, mi risponderai. Sei con me, mi risponderai. Fra luci e ombre, fra i colori che sono, cercherò aggettivi, tutti gli aggettivi, per farne complementi d'amore. Nel vuoto della scala senza fine, nel pieno della porta che si apre, troverò i periodi migliori per comporre i miei pensieri. Quando ti domanderò dove sono, mi risponderai. Sei con me, mi risponderai. Dietro le foglie che cadono, dinanzi agli occhi che cercano, inseguirò il calore del respiro, del tuo respiro senza pause. Sulle pagine dei miei ricordi, sulle pagine dei tuoi diari, leggerò con foga del tempo che scorre. Quando ti domanderò dove sono, mi risponderai. Sei con me, mi risponderai. Stretto da passi incerti, con le mani gonfie che non comprendono, vorrò averti accanto. Nel buio della sera, nel dubbio della confusione, non crederò al cuore che si ferma e vorrò le tue labbra sulle mie. Quando ti domanderò dove sono, mi risponderai. Sei con me, mi risponderai. Grazie ancora Alfonso per la magia che ci hai regalato e l'emozione. Grazie a te Rita, grazie a Pietro Pancamo, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ringraziamo infine Elisa De Almeida, artista portoghese, che gestisce il Palazzo Bonfranceschi di Belforte del Chienti, per l'ospitalità. Ringrazio Rita Bonpadre, Matteo Marangoni e Alfonso Caputo per aver partecipato al programma e naturalmente ringrazio anche Marco Ravic per aver contribuito alla realizzazione tecnica di questa puntata. Bene, amici ascoltatori, non mi resta che darvi appuntamento al mese prossimo con nuovi autori e nuove letture. Un caro saluto a tutti e a risentirci.